La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, la nostra ora di cinema settimanale in questo ultimo weekend di novembre, weekend in cui si cominciano a sentire rullare i tamburi della grande volata natalizia che piano piano comincia. Abbiamo già avuto un segnale molto forte la scorsa settimana con l'uscita di Harry Potter, che è partito veramente col botto, lo vedremo fra poco anche nelle nostre classifiche. Ma noi come sempre ci concentreremo sui film che abbiamo scelto, più importanti per noi almeno di questo fine settimana, fra quelli che escono nelle sale cinematografiche italiane. Avremo anche una vasta parte dedicata un po' al magazine e all'informazione che si muove intorno al cinema. Sentiamo i titoli di testa. Arriva in Italia Precious, il film che ha vinto 2 Oscar, raccontando un'America marginale con gli occhi di un'adolescente obesa dei ghetti di New York che cerca il suo riscatto attraverso l'istruzione. Alla Rosa Purpurea, intervista esclusiva con il regista Lee Daniels. Nella stagione d'oro della commedia italiana arriva un altro film destinato ai grandi incassi. È La donna della mia vita di Luca Lucini. Insieme ad Alessandro Gassman e Stefania Sandrelli, protagonista è Luca Argentero, sempre più una certezza del nostro cinema. Di nuovo una favola in 3D per la Disney. È Rapunzel, la storia immortale di Raperonzolo, 20 metri di capelli e un principe baldanzoso per farsi liberare dalla torre in cui è prigioniera, con le musiche del pluri-Oscar Alan Menken. Riscoprire i capolavori di Agnès Varda attraverso una grande retrospettiva organizzata dal Film Festival del Garda e un libro sul suo cinema, Senza tetto né legge. Ne parliamo con l'autore Nicola Falcinella. E allora, questo è il menù molto ricco della puntata. Noi entriamo subito nel vivo scegliendo il primo film, raccontando il primo film di questo fine settimana. Avete sentito anche nei titoli, stagione d'oro per la commedia italiana, quella meno becera, quella sì che chiaramente fa ridere, vuol far ridere, ma vuole anche raccontare un po', fotografare un po' lo stato del nostro paese, della nostra società. È stato così per Benvenuti al Sud, che sta dominando le classifiche. Potrebbe essere così anche per La donna della mia vita, il film di Luca Lucini, che in questo senso è uno dei registi italiani che meglio interpretano questa, chiamiamola, nuova commedia all'italiana, e con un cast che va da Luca Argentero ad Alessandro Gassman, a Stefania Sandrelli, a Valentina Ludovini, a Giorgio Colangeli, insomma un cast corale molto molto ricco. Noi abbiamo mandato in avanscoperta la nostra Barbara Righini, che ci racconta il film. Appena sentivo gridare dalla loro stanza, già sapevo chi avrei dovuto prendere a sberle e chi consolare. Ma non cominciamo, dai, così, no, dai. Il mio povero amore. Tornava sempre a casa pieno di lividi. Lo picchiavano sempre. Sempre. Ogni tanto succedeva, ma... Gira attorno a lei Stefania Sandrelli. È lei il fulcro del nuovo film di Luca Lucini, La donna della mia vita. Una nuova calibrata commedia non priva di spunti di riflessione. La donna della mia vita del titolo può essere sì la protagonista femminile Sara, contesa fra due fratelli tanto belli quanto diversi fra loro, ma più probabilmente è proprio la Sandrelli, in grande spolvero nel ruolo di Alba, la madre che dietro le quinte cerca di mantenere una giustizia familiare. E allora c'è il fragile Leonardo, interpretato da Luca Argentero, che tanto ha sofferto per amore, e il Latin lover Giorgio, sposato, ma che non rinuncia ad avere altre storie nonostante con sua moglie stia cercando un bimbo. Riesce a mettere incinte tutte tranne me. Carolina, io non sono uno stallone, sono delle pazienti. Non le metto incinta io, sono un medico. Tu non vuoi bambini? Ma certo che li voglio, tesoro, solo che non bisogna avere fretta. Dai. Tutto in famiglia diventa molto complicato quando la nuova fidanzata di Leonardo si scopre essere una ex amante di Giorgio. Allora il fratello più dolce e sensibile tira fuori le unghie. Un cambio di personalità molto repentino. Luca Lucini. In realtà c'erano stati 2 montaggi diversi. Abbiamo preferito alla fine questo cambiamento shock piuttosto che fare una trasformazione graduale che diventava troppo simmetrica rispetto ad Alessandro, e quindi ha lavorato molto bene lui sul fatto che praticamente per tutta la prima fase, in cui è un personaggio un po' più sfigatino, non abbiamo utilizzato il suo sorriso. Lui ha questo sorriso molto accattivante, molto anche sexy per certi versi. Invece da una certa parte in poi del film abbiamo iniziato a utilizzare il suo sorriso, ed effettivamente proprio quasi sembra un'altra persona. La storia è ambientata a Milano, non a caso. Milano sicuramente era una città in grado di raccontare benissimo una famiglia di questa borghesia industriale, perché la città di Milano ha questa classe sociale molto presente da parecchio tempo, e quindi ambientarla a Milano era sicuramente una scelta giusta. Ovviamente, essendo io di Milano, il fatto di poter girare in questa città era un vantaggio, mi permetteva appunto di usare la mia sensibilità rispetto alla vita che ho vissuto per 40 anni qui. Quindi i produttori, pur spendendo un po' di più, hanno accettato la sfida. Il regista di Oggi Sposi torna a lavorare con Argentero per la terza volta e l'ex GFino, ancora acerbo come attore, lascia intravedere un futuro promettente. Certo, Argentero è facilitato nella sua prova dall'essere circondato da un cast forte che comprende Alessandro Gassman e Giorgio Colangeli. E Lucini si mette proprio al servizio del cast con una regia mai invasiva, discreta. Nascosta dietro un'apparente storia di curiosi casi del destino con lieto fine, c'è una riflessione sul ruolo della mamma nella famiglia italiana e su quanto le bugie spesso servano a mantenere l'ordine all'interno dei rapporti. Un film senza pretese di capolavoro che dà ciò che promette. E grazie allora a Barbara Righini che ci ha raccontato La donna della mia vita. Abbiamo detto il buon andamento in classifica di Benvenuti al Sud, ma anche di Maschi contro Femmine di Fausto Brizzi, che è già arrivato a 12 milioni e mezzo di incasso. Classifica, diamoli un'occhiata. Dicevamo Harry Potter parte col botto, 7 milioni e mezzo di incasso nel primo weekend in Italia, una partenza davvero straordinaria. Pensate, in America 125 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione, è stata un'uscita mondiale. Si parla di un film che alla fine probabilmente incasserà più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Secondo posto per Soul in 3D, e qui gli amici dell'horror ovviamente si fanno sempre sentire quando arrivano queste pellicole. Terzo per Maschi contro Femmine di Brizzi. Quarto per The Social Network, che in Italia sta andando così, dobbiamo dirlo. 570.000 euro di incasso nel secondo weekend di programmazione e 1.700.000 dall'inizio del suo sfruttamento. Poi appunto quinto posto ancora per Benvenuti al Sud, che si avvicina ai fatidici 30 milioni di incasso, che ne fanno l'incasso record italiano fino a questo momento in questa stagione, e poi una new entry al sesto posto come Un marito di troppo. Mi chiamo Clarice Precious Jones. Mi chiamano Precious. Vivo a Harlem. Mi piace il giallo. E ho avuto problemi all'altra scuola. Perciò vengo qui. Una cosa che fai bene? Niente. Tutti sanno fare bene qualcosa. Mm-mm. Coraggio. Io so cucinare e non avevo mai parlato in classe prima di oggi. Si presenta così Clarice Precious Jones, senza tono e non hai entusiasmo, ovviamente. Se sei nato ad Harlem, pesi 150 kg, sei semi-analfabeta, tuo padre ti ha violentato e ora porti in grembo il suo figlio. Si presenta così, dicevamo, Precious, il film di cui ci occupiamo in questa seconda parte della Rosa Purpurea, ma è una ragazza, Precious, che dentro non si arrende. Volona, vieni qui. Dove sei stata stamattina? Ma hai sentito che ho detto dove sei stata stamattina? A scuola. Sono andata a scuola. Sei una troia bugiarda. Non è vero. E invece sì. Quelli dei servizi sociali hanno chiamato per dire che non sei più a mio carico perché non vai a scuola. Te l'ho detto che mi hanno cacciata. Lo sai, sono a casa da quasi 2 settimane. Non mi hai detto un cazzo sul fatto che ci andavi oggi. Te l'ho detto che andavo a scuola stamattina. Pensi di metterci qualcosa in quella padella? Precious, hai qualcosa da dire? No. Allora qui dentro non si sbatte niente, è chiaro? Sì, signora. Alle angherie della madre, che la sfrutta, come avete sentito, oltrepassando il limite delle sevizie, all'allontanamento da scuola, dove oggetto dei crudeli sfottò dei compagni per la sua nuova gravidanza, Precious risponde iscrivendosi alla scuola sperimentale di Miss Rain, che risponde a un motto: each one teach one, ciascuno insegna ad ognuno, perché Precious ha anche tante cose da insegnare. Aprite tutto il quaderno, mettete la data in cima alla pagina e scrivete. Non mi importa se scrivete tutto male, non mi importa se fate errori di grammatica, voglio che scriviate quello che sentite. Questo corso sarà come un treno che passa. Alcune di voi riusciranno a prenderlo e altre no. In effetti Precious è bravissima in matematica, sa anche cucinare, l'ambiente delle compagne, tutte diversamente problematiche, ma in fondo uniche, come lei, la stimola ad andare avanti, a cercare la luce in fondo al tunnel. Precious partorirà il suo bambino e troverà il coraggio per andare avanti ed essere persino felice. Non l'ho preso qui. E dove l'hai preso? In un negozietto vicino a casa mia. Ci compro la roba biologica, così non mi tocca mangiare quelle misteriose schifezze di carne che hanno di sotto. Portami qualcosa, niente frutta, mi piace McDonald's. Primo, non mangio quella roba. Secondo, neanche tu la dovresti mangiare. Non è sana. Ma mi piace McDonald's, ci piace a tutte. Sì, ci piace McDonald's. Mm, anche sì, a noi. Ma invece fa schifo McDonald's. Io voglio quella roba biologica che mangi tu. Bene. Allora stammi a sentire. Quando esci da questo posto, vai con tutte le tue amichette da McDonald's e ti mangi tutti gli hamburger che vuoi, ma qui dentro stai attenta alla tua salute. Tu sei un medico? Sei un medico? Se sono un medico? Sì. No, sono un aiuto infermiere. Sì, no, vi fa ridere. È che sei un maschio. Non avete mai visto un infermiere uomo? No, non carino come Beh. Te. Quante cose belle in questo film girato dal semi-esordiente Lee Daniels, che fra poco sentiremo in un'intervista esclusiva per La Rosa Purpurea. Partiamo dal cast. La novità è Gaburay Sidibe nei panni di Precious, una grandissima Monique premiata con l'Oscar e il Golden Globe per il ruolo della madre. Mariah Carey, tostissima assistente sociale. E per finire con le stelle della musica, l'avete appena sentito, Lenny Kravitz, infermiere di un ospedale di periferia che abbiamo appunto sentito molto ambito dalle ragazze della scuola che sono andate a far visita a Precious dopo il parto. Precious, in 80 sale italiane grazie a Fandango da questo fine settimana, è uno di quei film capaci di suscitare la commozione nel rigore espressivo, di evitare ogni patetismo e di regalare una speranza a tutte le Precious che sono in ciascuno di noi quando il carico della vita sembra non lasciarci scampo. Ma è anche un film sulla cultura, o meglio sull'espressione come veicolo di emancipazione, e di questi tempi è un messaggio quanto mai appropriato. Lee Daniels dirige con mano libera e indipendente, collocando il film fra il primo Spike Lee e il grande John Cassavetes di Una moglie. E allora sentiamolo Lee Daniels raccontarsi e raccontare il suo film in un'intervista che mi ha rilasciato nello splendido scenario di Terrazza Martini a Milano, che tra l'altro ha confidato Lee Daniels di voler usare come set per un prossimo film. Alla Rosa Purpurea c'è Lee Daniels. Yes, so when I was doing the film, Mentre lavoravo al film, mi sono ispirato a molti film di cineasti europei, rivedendomi le immagini girate nelle strade di film spagnoli, svizzeri e anche un po' italiani, perché volevo riprodurre quello stesso tipo di ambientazione e di sentimento, considerando che Harlem un tempo era chiamata Piccola Amsterdam. Volevo dare proprio questa emozione diversa. Un altro aspetto è quello della diversità. La protagonista Precious è sicuramente una ragazza diversa, però il concetto di diversità mi ha portato a pensare un'altra cosa, che come dice un motto, da vicino nessuno è normale, insomma, cioè le diversità sono tante alla fine, e questo è diventato un mondo di diversità. Allora gli chiedo proprio questo: secondo lui è ancora valido, esiste ancora il concetto di diversità, si è diversi da qualcosa, o tutto sommato anche questo film ragiona su questo punto e ci dimostra che non è così? Io non considero Precious una ragazza diversa. È una ragazza molto normale. Se uno visita New York, ci sono tantissime donne come lei, bianche e nere. Poi sono i mass media, è Hollywood. Sono le persone che si occupano della pubblicità a proporci la normalità sotto forma di una donna bionda che pesa 50 kg. È vero, forse Precious è un po' estrema, ma sono tantissime le donne in tutto il mondo, e non soltanto negli Stati Uniti, che assomigliano a lei. E il mio intento è proprio quello di dare voce a chi voce non ha e dare volto a chi non ha volto. Ha detto prima che nei set, nell'ambientazione, si è ispirato appunto a un po' al cinema europeo, eccetera. Però gli volevo chiedere qualcosa invece sulle sue ispirazioni cinematografiche, sui suoi maestri di riferimento, se ce ne sono. A me, per esempio, certe scene di questo film hanno ricordato alcuni momenti del più grande cinema di Cassavetes, per esempio. Cioè, si riconosce in questo, e quali sono eventualmente i suoi ispiratori? My film, I personally am a little ghetto. a little Euro, a little homo. Io cerco di esprimere tre componenti di me stesso. Sono uno che viene dal ghetto, che ha sentito molto le influenze europee. Sono omosessuale e sono nero. E in questo senso i miei riferimenti sono Spike Lee, per la mia radice afroamericana, e il ghetto, Gus Van Sant, e Wong Kar-wai per quanto riguarda l'omosessualità, e invece per la mia sensibilità europea, Fellini, Almodovar, con anche un piccolo tocco un po' funk di John Waters. Just to, you know, just to give it a little funk. Yeah. Volevo chiedergli invece di parlarci di questa straordinaria protagonista che si è un po' inventato, diciamo, no? Che Gabi Sidibe, come l'ha trovata, che ragazza è, come ha vissuto questa esperienza, insomma, e parlarci un po' di lei. It was wonderful. It was she changed my life. È stata magnifica. Lei ha cambiato la mia vita e il mio modo di guardare le persone che non hanno l'aspetto che, secondo l'America, noi americani dovremmo avere davanti a tutto il mondo. Ho esaminato più di 400 ragazze, ma non andavano bene. E se chiami le agenzie di Hollywood, non gli puoi chiedere se ti mandano un'attrice nera di 150 kg, perché non lo fanno. Quindi sono dovuto andare nei McDonald's, nelle stazioni, per le strade. Abbiamo cercato questa donna in lungo e in largo per tutta l'America. Dopo questa ricerca siamo arrivati a 10 ragazze. Ognuna di queste era Precious perché nessuna di loro aveva avuto alcuna esperienza cinematografica da attrice. Erano tutte senza espressione. Erano tristi. Molte di loro avevano subito abusi. Altre avevano l'HIV. Ognuna di loro si sentiva invisibile. Un paio di giorni prima di girare il film, Gabory è venuta nel mio ufficio e ha fatto un'audizione come avevano fatto tutte le altre. Ma quello che l'ha distinta dalle altre 10 ragazze selezionate è stato che lei recitava davvero la parte di Precious, in scene come quelle in cui le abbiamo fatto dire piangendo «Amore, picchiami, abusa di me». E dopo l'audizione lei era entusiasta e mi diceva «Adoro i tuoi film, sei fantastico». Gabi è una palla di luce e di splendore. È entusiasta. Non è affatto Precious. Lei, di fatto, ha interpretato la parte, mentre se avessi usato una delle altre, avrei avuto la sensazione di sfruttarle. Because they wouldn't have been acting. With Gabby, she's acting. Ti faccio un'ultima domanda. Volendolo vedere sotto un certo punto di vista, il suo film, a mio modo di vedere, è una sorta di reinterpretazione moderna del sogno americano. Cioè, nel senso che questa è una ragazza che con la sua tenacia, con la sua forza, contro ogni convenzione sociale, cerca di farsene, di affermarsi, di trovare una sua via. Questa mi sembra un po' una reinterpretazione, no? Meno retorica, forse, però molto forte del sogno americano. È così. I do, and thank you for acknowledging her as American hero. Grazie per aver riconosciuto in lei un'eroina americana. Ma io non penso a lei solo come a un'eroina americana, ma come un'eroina per chiunque. Perché questo film è universale, non riguarda solo le persone nere. Sai, ci sono persone che hanno lavorato con attrici bellissime e queste non si sentono ancora belle abbastanza. Quindi il film è per tutti quelli che si guardano allo specchio e si percepiscono diversi da quello che vedono. Gabi è un'afroamericana e noi ne abbiamo parlato da un punto di vista afroamericano, ma Precious era, prima che io facessi il film, uno spettacolo di Broadway, che poi è stato in scena anche a Londra con tutto un cast bianco. Precious era bianca, la madre era bianca, tutto il cast era bianco. È una storia universale. È solo perché io sono afroamericano che l'ho reinterpretato nella mia prospettiva. Ed era Lee Daniels, regista di Precious, alla Rosa Purpurea, un film assolutamente da non lasciarsi sfuggire. A questo punto noi, con un attimo di ritardo rispetto ai soliti nostri tempi, abbiamo la prima parte del DVD Game di questa settimana, la prima traccia delle tre misteriose che vi proponiamo per provare a indovinare il film e a vincere il Blu-ray, anche in questo caso il Blu-ray, proprio di questo film. Sentiamo. Dane, dove li metti i tuoi CD dei Jonas Brothers? Ti sei messo nei guai. E allora un bambino che fa una domanda e insomma avete sentito un po' il clima, quello che è la Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, e più tardi ovviamente ci saranno un altro paio di possibilità. Terza parte del nostro programma, un'altra novità fra quelle di questo fine settimana. Abbiamo voluto scegliere in questo caso un film, come si diceva una volta, per grandi e piccini, più per piccini per quanto riguarda almeno la provenienza, visto che si tratta del nuovo lavoro della Disney che arriva nelle sale in 3D, ormai, come dire, il dado è tratto, il treno del 3D è in corsa, anche se con ammiratori e anche più di qualche detrattore, e questo poi magari qualche volta sarà anche un tema di cui parleremo. Parliamo di Rapunzel invece, la favola di Raperonzolo, questa ragazza chiusa nella torre con questa ventina di metri di capelli che aspetta il suo principe per essere liberata, insomma tutto come nelle favole potremmo dire, ma vediamo e sentiamo come invece questi argomenti, questi ingredienti vengono mescolati nel nuovo film Disney dalla nostra Chiara Pizzimenti. Sono un tipo dai sogni semplici. Fai la guardia a questa? Sì. Oh. Ah, ah! Ma quel giorno cercavo solo un posto in cui scappare. Poi mi ha colpito. Flynn Rider, bandito ricercato, affascinante e fortunato, si presenta e ci racconta l'antefatto della favola. Una bella principessa rapita quando era bambina da una strega cattiva e rinchiusa in una torre. Proprio in questa torre arriva un giorno Flynn, ma ci dice lui stesso com'è andata. Nella torre viveva una ragazza che era lì da tantissimo tempo. Sono disposta a proporti un patto. Un patto? Io voglio vedere il mondo, e non solo dalla mia finestra. Prima ho detto, non posso farlo. Poi ho detto, sciogli i tuoi capelli! Sì, sciogli i tuoi capelli. E non è una cosa semplice da fare per chi ha una chioma d'oro lunga 20 metri. C'è qualcos'altro che dovrei sapere di te? Ho dei capelli magici che devono essere protetti. E da chi? Vogliamo la ragazza dai capelli magici. I due sono ormai in viaggio. Saranno accompagnati da un cavallo al servizio della giustizia e da un camaleonte bodyguard, oltre che da un gruppo di briganti capitanati da un aspirante musicista. Va, vivi il tuo sogno. Lo vivrò. Il tuo sogno è una schifezza, dicevo a lei. Raperonzolo, questo è il nome in italiano, è la protagonista di una delle fiabe dei fratelli Grimm, rielaborata e dolcificata in chiave Disney e in 3D in Rapunzel, l'intreccio della torre. Non un'eroina classica innamorata, ma una giovane che vuole la libertà, che vuole crescere, e per farlo bisogna allontanarsi dalle madri soffocanti, in particolare se sono streghe e il loro amore non è disinteressato. La voce della protagonista nella versione italiana è di Laura Chiatti, quella di Flynn dell'ispettore Coleandro, Giampaolo Morelli, il brigante Uncino e Mario Biondi. Non mancano le risate, molta musica, non la migliore di casa Disney, e un po' di leziosità. Un film per bambine di età diverse che apprezzano una simpatica canaglia. Va a finire molto bene, si sposano e... Sì, molto. Mi è piaciuto quando cade la diga e la principessa salva... A te è piaciuto? Un po'. Anche a me la storia mi è piaciuta e anche il resto mi è piaciuto. Il personaggio? Maleonte. Rapunzel. Il Lodi. Meglio 3D o normali i film? 3D, perché quando lei si lancia e si annoda coi capelli ai tronchi, tipo ti venga addosso. No, 3D preferisco. Perché? Perché si vede meglio, cioè più realistico. Sì, sì, è carino. Soprattutto la storia mi è piaciuta, sinceramente. Però preferisco non 3D. E abbiamo raccontato Rapunzel, qui alla Rosa Purpurea. Noi a questo punto andiamo a giocare. Seconda traccia del film misterioso di oggi. Mi ha inseguito. Un pupazzo ti ha inseguito? Me lo hai messo nel letto. Lucas, io non so di che tu stia parlando, non ho messo nessun pupazzo nel tuo letto. E avete sentito, questa volta si fa riferimento a un pupazzo nel letto, sono due fratelli che parlano, insomma qualcosa di misterioso potremmo dire, comincia ad accadere in questo film. La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, più tardi un'altra possibilità per provare a vincere il Blu-ray di questo film. E ora parliamo di un libro. Esaurita la parte dedicata ai film della settimana con i nostri consigli, vi ricordo che escono anche A Natale mi sposo, Cine Panettone, Boldi Canalis, esce anche Il mio nome è Can, esce anche Ancora tu, The Killer Inside Me, un altro film, forse l'unica proposta d'azione di questo fine settimana con Casey Affleck e Jessica Alba. Insomma, come sempre, proposte nuove ce ne sono tante, ma noi ci concentriamo sulle nostre preferite. E dicevo, a proposito di preferiti, questa volta vogliamo parlarvi di una regista, di una delle rare, possiamo dire, o comunque in minoranza, registe donne del cinema che hanno davvero non solo lasciato un segno nella storia del cinema, ma anche influenzato molto un determinato modo di fare cinema. Non è facile, non è frequente, ma in questo caso è sicuramente così. Stiamo parlando di Agnès Varda, grande regista francese, e ne stiamo parlando per alcuni motivi, perché al di là della passione anche personale per il suo cinema e per quello del suo ormai defunto marito Jacques Demy, uno dei più colorati e musicali maestri della settima arte, ebbene, dicevo, Agnès Varda torna prepotentemente d'attualità per tre motivi. Intanto, fra poco lo sentiremo anche, perché il suo ultimo film, che non definisco ancora nuovo, perché in effetti è uscito è stato presentato un paio d'anni fa a Venezia, ma bellissimo, Le Plages d'Agnès, sta per uscire in Italia. Poi perché c'è un libro che, diciamo così, mette un po' il punto sulla sua cinematografia, e fra poco sentiremo qui in collegamento con noi l'autore di questo libro, Nicola Falcinella, e c'è anche una retrospettiva al Film Festival del Garda che è davvero da recuperare. Chi vuole andare a farsi uno o due giorni di lago e di cinema sul Garda davvero può vedere, rivedere, riscoprire o scoprire per la prima volta, se non l'ha mai fatto prima, una grandissima regista. E allora, questi motivi per cui noi parliamo adesso di Agnès Varda, ma lo facciamo introducendoci un po' a quei suoni splendidamente 60 di questa Parigi della Nouvelle Vague, potremmo dire, con un assaggio del trailer originale di uno dei suoi capolavori, di uno dei suoi film più conosciuti. Il suo film più conosciuto è senza dubbio Senza tetto né legge, che vinse il Leone d'Oro a Venezia, ma questo Cléo, dalle 5 alle 7, fu forse il film che la fece scoprire in tutto il mondo. Sentiamo. Cléo de 5 à 7, ou plus exactement de 5h à 6h30, c'est un portrait de femme, entre l'enquête et la quête de soi-même, entre la coquetterie et l'angoisse, entre l'apparence et la nudité. Cléo, c'est une chanteuse. Cléo, c'est une charmeuse. Si j'ai du talent, il est fort. E questo è il trailer di Cléo dalle 5 alle 7, siamo ripiombati indietro di quasi 50 anni. Un saluto a Nicola Falcinella, che è in collegamento con La Rosa Purpurea. Ciao Nicola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il perché di questo libro, il perché di questa passione per Agnès Varda, ce lo devi spiegare un po' tu, nel senso che io ho introdotto, insomma, un po' i motivi per cui questa regista ha una così grande allure, usiamo un termine francese, ed è una permanenza nella storia del cinema, anche di chi ci si avvicina da più giovane. Ecco, è una regista che non passa di moda. Perché ne parliamo adesso e perché hai deciso di dedicarti un po' alla sua opera? Perché ho deciso di dedicarmi a lei, e un po' dipende dal film di cui abbiamo appena sentito il trailer, perché io vidi Cléo dalle 5 alle 7 una ventina d'anni fa, in una retrospettiva sulla Nouvelle Vague, e me ne innamorai. Da allora sono andato a ricercare i suoi film, anche con delle difficoltà, perché non era facile recuperare i suoi film, e poi mi è capitato di incontrarla in alcune occasioni, quando è stata a Bergamo nel 2001 nella rassegna del Film Meeting dedicata a Denis, e poi quando è stata a Cannes in giuria nel 2005, e quando ha presentato a Venezia nel 2008 Le Plages d'Agnès. Parliamo dei film, ecco, io prima ho citato il più celebre, sicuramente Senza tetto né legge, almeno in Italia, perché visse Leone d'Oro a Venezia. Quello che l'ha un po' scoperta, Cléo dalle 5 alle 7, un altro titolo che bisogna vedere di Agnès Varda. Ma da vedere sicuramente La Point Court, che fu il suo primo film, girato nell'estate del 54, andato a Cannes nel 55 e poi uscito in Francia nel 56, che fu il film, fu con un film di Melville, uno dei davvero degli anticipatori della Nouvelle Vague, non tanto in un senso estetico, ma proprio in un senso di rompere gli schemi produttivi. La Varda era una giovane fotografa, lei non era una cinefila, non aveva, ha sempre detto di non aver visto dei film, molti film prima di allora, però riprendeva un po' quello che stava succedendo in Italia, quindi film di Rossellini, i primi lavori di Antonioni, e un po' anticipava quello che sarebbe successo in Francia. Dicevi brevemente, Nicola, Les Plages d'Agnès, presentato a Venezia 2 anni fa, poi nulla, il buio almeno per quanto riguarda la distribuzione italiana. Adesso la notizia è che oltre a poterlo vedere al Film Festival del Garda e a poterne leggere sul tuo libro, c'è anche la notizia appunto della sua prossima distribuzione in Italia. Sarà una piccola distribuzione perché sarà per la Bottanti Bergamo e insieme al Festival del Garda, però il film uscirà anche in DVD nei prossimi mesi e anche in Italia si potrà vedere questo documentario autobiografico, un'autobiografia molto particolare e anche nuova nella forma. E allora in chiusura, Nicola, ricordiamo le date della retrospettiva al Film Festival del Garda. Sarà dall'8 al 12 dicembre al Vittoriale degli Italiani a Gardone della Riviera. Eccoci qui ancora insieme, quarta parte della Rosa Purpura, dedicata come sempre ai film da vedere in TV, con ovviamente la precisazione che siano gratuiti e in chiaro. Ma ormai il chiaro non esiste più praticamente, perché adesso anche a Milano è arrivato il momento dello switch off e siamo quindi con il digitale terrestre che rappresenta il chiaro di una volta, è la TV di tutti, e quindi nei tanti canali gratuiti del digitale terrestre ci sono tanti tanti film importanti da vedere o rivedere. Come sempre noi andiamo a recuperarli nei palinsesti televisivi della prossima settimana con gli amici della redazione del settimanale Film TV. Abbiamo in collegamento Sara Sagrati, che saluto. Sara, cominciamo subito, visto che sta per arrivare anche il suo nuovo film nelle sale, con una proposta di Woody Allen. Buongiorno Franco, ben ritrovati con le segnalazioni di Film TV. Questa settimana parliamo di Woody Allen, in attesa di vederlo tra poco nelle sale con il nuovo film Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni. Recuperiamo invece Anything Else, che andrà in onda domenica 28 alle 2:10 di notte su Canale 5. Anything Else è un film molto fortunato, molto divertente, che torna dopo qualche titolo un pochino più offuscato come Hollywood Ending, dove Jason Biggs è una sorta di giovane Woody Allen innamoratissimo di una splendida Christina Ricci. Un film che segna forse l'inizio di una ripresa, ma non è ancora il meglio del Woody Allen recente, a mio modo di vedere. Basta che funzioni il suo film, il suo ultimo film è davvero irresistibile, e speriamo che anche questo Incontrerai l'uomo dei suoi sogni, dei tuoi sogni anzi, lo sia ugualmente. Ma spostiamoci non tanto di luogo quanto di argomento, Sara. E dalla Manhattan di Woody Allen facciamo un salto invece all'America della contestazione del 1968, in piena guerra del Vietnam. Dei soldati vengono allenati e quindi addestrati in un campus universitario, e questo ovviamente creerà una forte tensione. Fragole e sangue, che andrà in onda su Rai 1 alle 3:15 venerdì 3 dicembre, è un vero classico, è considerato insieme a Easy Rider il titolo fondamentale che fondò e segnò l'opinione pubblica di quegli anni. Allora ricordiamo gli appuntamenti ancora: Anything Else di Woody Allen domenica 28 novembre su Canale 5 alle 2:10, Fragole e sangue venerdì 3 dicembre su Rai 1 alle 3:15, sempre di notte, ma insomma i videoregistratori sono lì per quello. Grazie Sara Sagrati. E con questo è tutto, ci risentiamo la prossima settimana, buon weekend di cinema. Noi continuiamo invece, continuiamo con la terza traccia del film misterioso di oggi. Non può essere vera, non può essere vera, non può essere vera. È morta, non può essere vera. Chi? Annie Smith. Era la mia migliore amica, facevamo tutto insieme. Che è successo? L'ho lasciata cadere. E allora, avete visto com'è mutato il clima di questo film dalla prima clip a questa? Siamo nell'horror ormai più conclamato, si dice l'ho lasciata cadere, dove si cade? Allora, la Rosa Purpurea @ radio24.it per vincere questo Blu-ray che è davvero straordinario, e ovviamente sveleremo tutto la prossima settimana con chi avrà vinto. E a proposito di chi avrà vinto, noi risentiamo una delle clip mandate in onda la settimana scorsa. Ci sareste molto utili da queste parti, ma capisco quello che fate. Sono serio? Sì. Vede, anch'io ho un paio di fratelli. Ah. Buona fortuna. Ed era Salvate il soldato Ryan. È stato un compito difficile per i nostri ascoltatori che lo hanno indovinato non subito al primo colpo, insomma ci è voluto un po', però alla fine i vincitori sono arrivati e sono Stefano Zontini di Storo, provincia di Trento, e Matteo Ferrari, non sappiamo di dov'è perché non ci ha scritto il suo indirizzo privato, anzi lo esortiamo, se ci sta ascoltando, a scrivercelo, come faccio tutte le settimane con tutti i nostri ascoltatori. Scriveteci già direttamente il vostro indirizzo di posta privata, perché questo facilita anche poi le spedizioni dei Blu-ray, come in questo caso che arriveranno questi nostri due ascoltatori. Uno straordinario film, Salvate il soldato Ryan, che ha cambiato per sempre la storia del cinema bellico. Firmato Steven Spielberg, i primi 20 minuti sono qualcosa fra le più belle cose che il cinema abbia saputo produrre nella sua lunga storia. Ne parliamo con il nostro Claudio Poffi, che è in collegamento. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, dopo lunga attesa l'uscita Blu-ray italiana per Salvate il soldato Ryan, assolutamente strepitosa, con un risultato pari alla proiezione cinema, quantomeno per le immagini, anche se confortato dalla sola traccia Dolby Digital per l'italiano, di buona resa, ma per ritrovarsi immersi a 360 gradi nell'opera bisogna passare all'originale DTS ad alta risoluzione. La pubblicazione Paramount Dreamworks, due dischi, Blu-ray, è assolutamente di notevole caratura. Per gli extra sono numerosi approfondimenti sulla lavorazione, l'analisi del progetto e la vera storia dietro la sceneggiatura, peraltro tutti sottotitolati in italiano. E questo per quel che concerne allora Salvate il soldato Ryan, che arriva in Blu-ray. Noi andiamo avanti con le recensioni di questa settimana. Uno dei film più belli del nostro cinema più recente, del cinema italiano degli ultimi anni, La nostra vita. Andiamo a sentire la clip. Niente, questa va consegnata a giugno. C'è poco tempo e poco guadagno, ma era l'unica che te potevo passare. Ma basta, porca. Per i pagamenti come funziona? Andiamo bene. Allora che non sei in cazzo, no? Te stai a mettere in una cosa più grossa di te, lo capisci? Come funziona? Funziona che il consorzio paga stati d'avanzamento, le date sono essenziali. Se non mi dai la palazzina, io non la do a loro e tu perdi il guadagno, che poi sarebbe l'ultimo 30% a collaudo effettuato. Solo per cominciare ti servono almeno una cinquantina di mila euro. Ce l'hai? Perduta la moglie durante il parto del terzo figlio, Claudio, operaio edile, risponde al lutto con una reazione spregiudicata alla propria condizione sociale. Poter offrire a se stesso e ai figli un universo di cose possibile solo attraverso il denaro. E allora Claudio ricatta il principale, ottenendo il subappalto la costruzione di uno stabile. Truffa, non esita a recuperare denaro da gente di malaffare, costretto a scelte che condizioneranno per sempre la sua vita. Notevole film di Lucchetti con uno strepitoso Elio Germano, amara fotografia dell'Italia di oggi, disponibile al momento solo in DVD grazie a 01 Distribution, qualità video ottima, la compressione si fa sentire poco, oltre al Dolby Digital c'è anche la traccia DTS con maggiore dinamica. Come extra segnalo un interessante backstage oltre a scene tagliate. Abbiamo attraversato, citato parecchi maestri del cinema in questa puntata, da Agnès Varda, Steven Spielberg, a Woody Allen. Beh, parliamo di un altro, forse del più grande di tutti, Stanley Kubrick, con uno dei suoi primi film, Spartacus. Sentiamo la clip. Schiavi, siete arrivati alla scuola gladiatori di Lentulo Vaziato. Qui sarete allenati al duello a morte. Naturalmente non vi si chiede di combattere a morte qui, questo verrà dopo che sarete venduti, e per signore e gentiluomini di qualità, quelli che apprezzano il bell'uccidere. Un gladiatore è come uno stallone. Deve essere molto curato, deve essere lavato, unto, rasato, massaggiato, istruito a usare il cervello. Un bel corpo con una testa addormentata vale meno della stessa vita. Nel 73 avanti Cristo il gladiatore trace Spartaco si libera dal giogo della schiavitù, diventando capo di una gigantesca rivolta di schiavi contro Roma. Sconfigge una legione, convinto di poter affrontare qualsiasi armata e andando così incontro a un tragico destino. Epico colossal, girato nel periodo del maccartismo, la cui regia passò di mano da Anthony Mann a Stanley Kubrick, scelto da Douglas, qui anche produttore, che ne aveva conosciuto il talento in Orizzonti di Gloria. Qualità video del Blu-ray, grazie a Universal, notevole, anche se permangono alcuni momenti in cui il livello dei neri non è elevato. C'è addirittura una traccia DTS in italiano, oltre a quella ad alta risoluzione in inglese. Tra gli extra segnalo sequenze alternative da differenti versioni del film, tra cui il finale del 67. Attenzione, l'appassionato non si faccia ingannare da una inesattezza dei dati tecnici che riportano un errato formato dell'immagine rispetto a quello originale, che è rispettato dal Blu-ray. E allora tutti tranquilli, perché Claudio Poffi non sfugge niente, e tra l'altro due anni dopo sarebbe arrivata Lolita, per dire sempre della carriera incredibile di Stanley Kubrick. Grazie a Claudio, appuntamento la prossima settimana. Un saluto, a presto. E noi chiudiamo qui la puntata della Rosa Purpura, grazie per averci seguito, restate con noi ancora per un'ora di cinema la prossima settimana, dalle 18 del sabato e dalle 15 della domenica. Un saluto da Franco D'Assisi.